Vespa, un quad, una moto carrozzella, tutto questo che vuoi, è movito in Kiwi. Ah, beh, ero sempre, ero stato sempre in Kiwi, ero stato, sarei stato proprio in pace, in pace, in pace. Perché vai lì, sei stipendiato, sei servito e riferito perché hai... ma pure se verrei stato di notte, ti stipendiamo, ti diamo il coso, però ti devi arrangiare con la spesa. Avevo regato tre pacchi di minestra, rosario e lutto, ma pure la carne l'avevo buccata io, avevo buccato carne e pesce, non me la manca tutta. E a buono buono una ventina di litri di vino, vino nero, e poi ti avevo fatto che c'era buccato la magna, una magnata di badì, di battelli, poi dice non si può pescare, e ha chiuso di tu, mi sei tutti notti con me, ero un fantasma, mamma picca. Allora Willy Lorbo, abbiamo mandato a Willy Lorbo, il fantasma di Willy Lorbo, una nave pirata, come hai detto tu, io, Iuia, un canti boi piranotti, fatta in sarada, guarrusso, pastelli, granchioni, paraglioni, di tutto da voi, si era abbassato buco, cainetto buco, si era abbassato a succiadura. Buona rete, so, i vitecchi fatti così. Cosa pecora e ne brodo di pecora, non fai arrucco. Vero Tino, Tino, Tino, ci sei Tino in ascolto. Tino se ne aveva arruzzicato pure i cogli. Tino, Tino era farato con un coso, con un compressore in ghivi e con una pinzetta. Vedi a vedere i paghetti buoni che erano scidi. Come cavatore. Ho tirato questa che i cogli. Oh, Iuia. Dai, di tenere poco fesseria. Beh, adesso ti dico anche una cosa, e questa non è fesseria. Mio bisnonno, e questa roba che raccontata da mio nonno, che raccontava mio nonno, e già, loro di lì a Punta Scorno, quando era mio bisnonno era fanalista, loro barattavano, ascoltami, barattavano le aragoste con il pane, anzi mia bisnonna barattava le aragoste che pescavano di lì con la farina per fare il pane, con la farina per fare il pane o con il pane, con i sinarichi, con quelli di Stentino, con i sinarichi, barattavano il pane con le aragoste. Pensa tu, Osaira, la passi tu, ti dammi un chilo di pane, dopo un chilo di ariuscia. Invece prima si faceva così, con la farina, si barattava la farina, si barattava anche il vino, si barattava tutto, tutto, e lo facevano in cambio col pesce, facevano, capito? O i polpi, o i granchi, o quello, o quell'altro, però in genere era con l'aragosta, loro facevano la spesa di tutto. Cioè la spesa, prima che pesano finita, però dice noi rubani lo barattavamo con la riuscia, e di cantariuscia ha giovagnato una tipa, dice a nonno, dice si è fatta la faccia come te lo coso, come te la grappa marina, mica premarine, tutta quella roba lì, capito? Che tempi erano, la ragosta col pane. E io l'avevo vista e letta quella storia, perché allora all'epoca c'era un medico al pescato, e quindi la farina stava arrivando, si può dire, da poco, e veniva male il trasporto, e allora facevano quei passaggi. Le ho viste mille barche dei pescatori cariche di aragoste, come stai dicendo tu, Gabri, e l'altra barca invece che con il coso del pane già fatto, le buste della farina. Hai già visto un documentario di questo? Se te lo so dicendo, non so te lo so dicendo in fesserie. Ti sto dicendo che mio nonno ci raccontava quello che mia bisnonna prendeva e barattava. Loro, per mio nonno che era piccolo, dice che la riuscia la pigliavano come tenuta anch'io. Poi mio bisnonno prendeva per mangiare, perché erano otto figliori, quindi e dovevano mangiare, e loro gli serviva la farina per fare il pane, serviva il pane, mia bisnonna faceva la pasta, e gli serviva tutto, gli serviva usaboni, la lana, gli serviva la roba babichissima. E facevano tutto col baratto e lo scambio di cose. Sì. E chi c'era in altri tempi? Va bene, una guzzetta a remi minori, una guzzetta a remi minori di 4 metri, io questa cosa. E dice, capottavano e pigliavano la riuscia, dice, pigliavano la riuscia così, a mano se la accudia una cosa, e intanto prima studia. Però si usavano queste cose qui già. Eh sì, altri tempi erano, pure nonno e nonna avevano su figliuri, quindi la cosa era diversa. E niente. Però era pure più bello, da una parte era pure più bello, c'era più affezione, più... Adesso siamo forse più allo sbaraglio. E già aveva pure fame prima, prima già l'hanno passata la fame comunque. Noi già siamo stati, noi abbiamo conosciuto già il lusso, però chi sa niente era conosciuta la fame, è vero. Dice oggi non mangio quello, e sì. A mangiare quello, e allora puoi andare pure dove doveva cucarti, ma non lo dicevano perché si mangiava tutti, e ti dicono che mangiavano tutti quanti da Ruganistrito, tutti quanti da un paggio romano, e mangiavano soprattutto roba di mare tipo zuppe di patate, pesce, dici, ma rubatate e pesce non si buoni, rubatate e pesce non buoni a chi non vede altro, compreso? Rubatate e pesce non buoni a chi non vede altro, rubatate si pigliava, l'usavo di pesce, perché adesso vedi al pietro con le patate, sempre trovo le patate te lo prendi per sfizio, prima usando un bredo con rubatato, la riuccia con rubatato, o altri pesci per pisciare la riuscia, i buniani a chi non vera altro, compreso, lo battato bidava lo sapore di usare di un pesce, lo battato diciava, si bunia, faceva lo zuppone, faceva quello zuppone, metteva l'orata, metteva, ci facevamo le zuppe di pesce, le zuppe del pesce che c'era, e buniani, i subani che lo faziano una volta la ghetta, una volta la ghetta, e rimburicava dentro questa roba di giutta, dentro questi sacchi, dentro queste cose anche di lana, non so come, e il pane durava una settimana, e dice, ma noi mangiavamo così, ce lo raccontavo, noi mangiavamo così, e noi fammi non avevamo mai passato, ma che fammi non avevamo mai passato, però dovresti mangiare su chi vera. E certo, a chi o mangiavisso o mangiavisso, e c'ha ragione. E era tutta un'altra, loro proprio ne conosci due avvami, a chi nonno, mio nonno che ha fatto la guerra, che è fuggito da Malta, o da ne è fuggito, che poi ha trovato rifugio a Roma, a Varzanello, in una famiglia, e l'hanno accolto, e poi è riuscito a venire di nuovo qua in Sardegna, e niente, da poi di 50 anni i visti da Nezicardo si sono ritrovati e sono ripartiti nonno con nonna e l'animannimi, e sono andati a Varzanello, a Viterbo, a Varzanello, a Ciappavi, il signor Artemio con Maria bello, e poi sono venuti loro qua a usare i banzetti, la nizzura, la cosa che hanno arregato, erano tipo noi sardi a usare quando abbiamo ribrosciuti e che cosa. Loro erano proprio partiti per la porchetta tipo a mangiare, come mettere un kebab, la cucina, pure in mezzo urbane, la cosa. Poi avevano i fruttetti delle nocciole, perché allora dice che venivano tutto alla Ferrero. E niente, quindi poi hanno raccontato che i fruttetti delle nocciole non hanno più sviluppato perché la Ferrero aveva cambiato ditta e quindi non gliele pagavano e niente, se no ho detto che già era bello anche loro là nel pezzettino, c'hanno un pezzo di verde e quindi bello davvero. E ti ripeto, come sei su Duni, hanno conosciuto proprio il vissuto strano. Noi siamo entrati in un'epoca dove c'era già l'avanzamento della tecnologia e quindi eravamo già un po' più, come si dice, curiosi. A chi dare i motorini anni 60, 70, poi siamo passati agli scooter e tutte cose. E quindi era già diverso, dai si fascia, se li stavi e se ne comparavi un'altra, va. Prima invece no, quando si fasciava ragazzi era un casino, si vivia con cani, magari era anche un coso affettivo e ci tenevano di più. E niente, e quindi come hai detto tu Gaffi era bella figlio. Beh, sicuramente era una vita molto più sana, una vita molto più pacifica. Avanti sopportendo lo punto di biglia e a semmare, diventa mare, diventa pacaretare. Nessuno che prima, no, veni, lo vemmo un pari. Prima che di quando si costruivano i casi, no? Prima si costruivano le case che non c'era tutta questa burocrazia che c'è oggi. Cosa avevano? I quattro amici, no? E tutte e quattro si sarebbe vendere a casa, e va via, un sabato da uno, un sabato dall'altro, un sabato una domenica uno, un sabato una domenica dall'altro. E tutti si hanno fatto la casa così prima. Era un aiuto generale, cioè un aiuto tra amici. Dite devo aiutare, io tutte e quattro, ma chi doveva avere un figliolo, un pochetto mannito, io venivo tu a travagliare. Facevano la rostita, facevano la bui, si pigliavano pure una mezza imbrecchina, la domenica continuavano e la domenica chi veni dall'altro, e così la gente si ha dato una mano. Ma adesso di queste storie qua non ce n'è più nessuno, tutti canti no, ma se devo fare quello voglio i soldi, non danno più valore, non si dà più valore alla vera, diciamo, all'umanità, tutto appresso a dinà, tutto appresso, tu dirai, sei macro, che cose non vabbè, io non so come, io faccio il travaglio mio, a me non ha fottuto, se io devo dare una mano a te e tirare dopo, a me non mi interessa, però, non c'è più umanità nelle cose, so tutto, vabbè, davvero una marisa in giro, che fa una marisa in giro, che da voi Marizia è in coscienza ed è furbo, perché si, la gente si chiede di voi, ma a chi pensi che cazzo l'altro pensa, e tutti pensano che l'altro sono macchi, no? E tutti quanti sono macchi, e infatti la sera abbigliano tutti quanti in culo usando la baraura. Ho già mi fumo una sigaretta, mi bevo un bicchiere d'acqua, aspetta. Via, già sono qua. Oh Gavino, ci sei? Ciao Dani, sto facendo una cosa e rientro subito, c'è anche Gianni, Vai Gianni. Riprendo subito Dani, scusami. Ehi, tranquillo. Ok. Gianni. Ciao Dani, mi senti? Ciao Gianni, finalmente con questa radio ti sento chiaro, con l'altra facevo fatica a sentirti, ma con questa ti sento forte e chiaro. Prova, becco, Danilo, mi senti? Ora, cambio. Gianni, io ti sento. No, non lo sento, poco fa lo sentivo, ora no. Ora mi senti? Ma non è che ha abbassato l'RFG, no, già. È impossibile non lo senti. No, ce l'ho al massimo io l'RFG. Poco fa quando stavo parlando con te lo sentivo chiaro. Ascolta, guarda, prova adesso mi senti? Cappa, adesso ti cuffio. È aumentato appena. Eia. Come mi senti? Come mi ricevi come segnale? A me come mi senti, Dani? Guarda, mi stai arrivando 8, e tu invece come mi senti? Gianni, Mi senti? Mi sa che non mi stai più ricevendo. Sì, che ti cuffio, Dani. Oh, a quanto ti sto arrivando? Quanto mi stai arrivando? Fai un passaggio. Eccomi. Oh, comunque con questa radio ti ricevo bene, forte e chiaro. Con l'altra facevo fatica a capirti, credi? Guarda, con questa più o meno sei 5 da me. Pensavo meglio. Ma ascolta, in che zona sei? Sei a Sorso o no? Ehi, Danilo, sono a Sorso, zona alta. È strano, perché Gavino mi riceve bene, pure lui nella zona bassa. No, c'è qualcosa che non va, non ti sento a volte. Oh Gianni, eppure io sto uscendo bene, come potete tutto. A te ti ricevo lo stesso bene, strano. No, adesso ti ho copiato bene. Oh, non sto toccando nulla, come potente come tutto sono sempre uguale a prima. Magari ci avevi il microfono un po' distante. No, sempre attaccato a bocca, sempre uguale. Strano, ma prima quando stavo parlando con Gavino come ricevevi? Lo vedi, Dani, cosa ti dico, che l'antenna fa la differenza. Sì, si vede, eppure lui è più positivo di te, se non la parte alta, quindi mi dovrebbe ricevere anche meglio. Ma stai scherzando, lui è vicino a Sinnuri, lui è proprio dalla parte alta di Sorso. E dovrebbe copiarti a fondo scala a te. Quindi, te l'ho detto, l'antenna fa la differenza, ma la fa veramente. Molti dicono no, e altro che no. Che antenna dilli, che antenna c'hai, Gianni? Una Gaim Master. Ascolta, ma da 5 ottavi o da mezzo? Da 5 ottavi già, Dani. Sì, affermativo, una 5 ottavi. No, sicuramente. Cosa, Dani? Avete parlato in due. Cosa, Dani? Sicuramente Gianni non mi sta più copiando. Mettete antenne d'alluminio, mettete le antenne di alluminio. Avani Gavu, Gavi, ne posso cavare un palo da una barca a vela, mi piatto chissà. Pigliati una mantova e te ne cavi tutti i pensamenti, tutti quanti i pensamenti te ne cavi, vedrai. Dammi retta. Giulio ce l'ha, però Giulio ha fatto un'installazione, dai, Giulio è 50 anni in frequenza, l'ha piazzata, dai, sicuramente in un altro modo. Perché Giulio riceve, con Giulio abbiamo fatto dei collegamenti anche fuori assieme in questo canale, niente, lo copiavano bene, però già, prenditi una mantova e cambiati il cavo, anche tu Dani, un'antenna in alluminio, non state con antenne strane, anche perché poi se avrai intenzione di prendere e continuare, comparti anche un apparato un po' più performante, di prendere anche un HF, puoi fare ascolto anche in bande amatoriali, capito? Vai in setti in 40 metri, anche di lì ti permette di ascoltare, con la Game Master di lì è un po' faticosa la questione, quindi comprate le antenne in alluminio. La Game Master è molto silenziosa, perché non ha QRM di niente, no, però non lo so. Io è un'antenna che sinceramente non comprerei mai. Poi vedete voi. Beh, perché è strano, cioè a me mi sta arrivando S8 a volte fa una punta di 9, e lui c'ha una boom, cosa c'è Dani? Una boomerang a lui, quindi vedete voi, vai Dani. Sì, capito, sì. Oh. ti ripeto, tu mi stai arrivando ma forte, forte, forte, ma anch'io a lui lo ricevo bene, ripeto, lo ricevo davvero chiaro con questa radio. Ascolta una cosa, ma con l'antenna tu cosa fai poi? Te la colleghi a massa o no? Cioè, discorso fulmini, poi come sei messo? Discorso fulmini? Mi hai chiesto? Esatto, esatto, per il discorso fulmini, tu preferisci collegare la massa, il traliccio, l'antenna, quindi mettere tutto a massa o no? Sì, io l'antenna, io il traliccio ce l'ho a massa, eh. Io il traliccio ce l'ho a massa, però l'antenna è isolata dal traliccio, perché potrebbe anche prendere, potrebbe, il, siccome le, diciamo queste antenne cortocircuitate, a volte potrebbe anche essere che fanno massa col palo, cioè che va in conduzione anche il palo. Quindi io ho all'antenna, alla frangia, ho messo della camera d'aria lungo quanto il pezzo dove aggancia l'antenna, capito? Quindi lei è proprio isolata, lei lavora solo l'antenna, non ho pericolo che mi faccia qualche scherzetto col palo o con cosa, o con queste cose qua. E ho ho a terra il traliccio e poi ho a terra anche le radio, però ho due masse separate, nel senso che da una parte della campagna ho messo due picchetti con un cavo da 12 da 12 mm di terra, ho messo due picchetti e sono arrivato a un ohm. La terra, per essere efficiente, deve avere un ohm, quindi quando tu hai questa misura con la massa a terra sei a posto. E poi dall'altra parte della casa, dove ho diciamo la scatola dove escono i cavi, tutte le calatte, di lì mi esce anche il cavo di terra e ho la terra collegata, ho tutte le radio con la massa a terra e anche l'alimentazione con la massa a terra, capito? E a ogni cavo, come ti ho detto prima, ci sono 3 o 4 ferriti, anche nei cavi microfonici, 3 o 4 ferriti, proprio per i ritorni di RF. E nonostante tutto, io a novembre ho avuto 4 sbalzi di corrente in una giornata di sole perfetta, una bellissima giornata di sole, e mi ha bruciato un alimentatore della linea Kenwood. E quindi solo l'alimentatore è costato ripararlo 145 euro. Queste qua sono i disguidi che si possono avere in questi dubbi. Quindi vol fatto bene. La massa a terra è molto importante, molto molto, anche negli alimentatori, tutto. Però devi stare anche attento, perché si potrebbe creare un loop di terra. Se io per esempio avrei messo la terra delle radio insieme all'antenna, insieme a quella del traliccio, quello poteva crearmi un loop di terra, invece gliel'ho fatta separata. Quindi ascolta, i picchetti proprio della terra l'hai collegati in due punti completamente diversi, giusto? Quindi a molta distanza tra loro, tra il picchetto della radio e il picchetto. Hai capito? Mancata la luce, vai già. Eia, ogni tanto questi colpi di corrente non andano bene. È un po' un problema. Comunque io le masse a terra gliele ho fatte, molta gente dice che non ci vogliono, però io gliele ho messe perché la radio la predisposizione per la massa a terra, io gliel'ho fatta a parte, mai si vecchia, mai si veda. E sono sicuro già che a te, che tu, se avessi avuto la massa a terra, quel danno alla radio non te l'avrebbe fatto. Lo so, capi, ma la massa a terra la devo attaccare al filo della corrente, così che dove c'è pull più negativo è massa a terra. As antica già, all'antica, ti fa un piastrone nel muro, una piastra in ferro ti fai fare la Davide, no? Nel muro, te la fai fare 12 cm per 12 cm, ti fai saldare dei bulloncini, 3-4 bulloncini, e questa piastra la fissi al muro. Anche di lì, molti dicono che non funziona, che è un sistema vecchio, però quel sistema funzionava. Non va, no. Non c'è bisogno di attaccare la presa che c'ha, diciamo, alla linea di corrente. Ti fai una bella piastra, anche 12x12, 15x15, ti fai attaccare 6, 7, 10 bulloncini, ti fai saldare, no? E di lì, da ogni radio che hai, togli, porti un filo di terra e l'agganci in quella staffa lì. E buono, un bel, ti metti un bel tassello chimico, non un tassello isolato, non un tassello in plastica, che se no non serve a nulla. Gli metti un bel po', gli metti del tassello chimico, gli metti un tassello di quelli in ferro, un tiravondo in ferro, ribone, o in acciaio, chi so che vuoi, e quello lì ti funziona, quello lì ti potrebbe, se tu riesci a trovare un punto dove, per esempio, riesci a beccare il punto di terra, che riesci a scendere anche un ohm e mezzo, due ohm, non dico deve essere un ohm, ma anche un ohm e mezzo, due, tu hai una buona terra. Poi basta misurarla col tester, vai dalla corrente, misuri la terra e vedrai che è efficiente. Eia, K, quindi basta che la colleghi anche al telaio della radio, la massa è qui alla piazza. Esatto, proprio così, sì, proprio così. Nel cavo che ti ho messo nell'altra radio, quello lì ha già la terra, quindi tu direi hai due masse a terra, ne hai una che va alla corrente e poi alla radio cerchi una vite, gli mandi un filo, lo colleghi a quella piastra lì e vedrai che funziona e tu di lì sei tranquillo, cioè sei protetto al 70%, capito? Molte persone dicono che non è vero e io ti dico di sì che è vero, io ti dico che è vero perché è così, perché c'è anche una cosa a spiegare, no? Tu hai visto che i fili della 220 hanno una fase neutro, hanno fase neutro e terra, no? Il blu, il marrone, il blu è il neutro, il marrone è la fase e poi c'è la terra, quella gialla e verde. Se tu quelli come gli attacchi funzionano, perché funziona, perché non ci sono problemi, però invertendo la fase col neutro ti accorgi di una cosa, se ci fai caso, se tu tocchi lo chassis della radio, no? Tocchi il tappo della radio, tu noti che ti dà un piccolo tremolo. Se ti dovesse dare un piccolo, però questa cosa qua, non la radio a 12 volt, attenzione, non quella con gli alimentatori, se tu prendi anche il Galaxy, no? Il Galaxy che ha 220, che ha la sua alimentazione, tu poggi la mano sopra il telaio, sopra lo chassis, ti accorgi che ti dà un piccolo tremolo, una sorta di lieve tremolo, no? Quella è corrente. Se tu giri la presa e fai combaciare neutro con neutro e fase con fase nella stessa linea, quel tremolo sparisce e quella roba lì, la radio, la trasforma in radiofrequenza. Capito già? Eia, sì, perché funziona meglio. Funziona meglio e più la corrente gira meglio all'interno dello strumento. È vero, oppure potrebbe anche ronzare l'alimentatore, qualcosa. Sì, me l'avevo fatto molte volte in precedenza, ma non con queste radio, con altre cose, no? Con la roba 220, tipo una radio di CD, una radio di cassetta. Erano a 220 e a volte secondo me mettevi la spina non funzionavano bene, ed è vero, però la massa ci vuole per forza, perché arriva una sovraccarico di energia e quella scarica a terra. Sì, ti arriva anche, cosa ti posso dire, sei protetto, hai, e soprattutto nella radiofrequenza la terra è molto importante. Perché molti dicono, no, ma la terra c'è l'antenna, c'è nel cavo dell'antenna, ma quello non è neanche vero, perché a volte il cavo d'antenna, secondo che lunghezza fai e secondo come lo fai, risuona come antenna, capito? Io ci sono stati così che ho attaccato lo strumento e il cavo faceva l'antenna, quindi vai a trovare il coso, a trovare l'inghippo dove, quando tu attacchi il cavo, quando tu attacchi il cavo per esempio allo strumento, a nano VNA, e ti segna delle dei picchi, dei piccoli, lì il cavo non sta, sta funzionando l'antenna e non va bene perché poi l'antenna non fa il lavoro che deve fare, il cavo deve fare da cavo, basta, finito. E ci vogliono le ferrite anche per quello, per i clienti di RF. E va bene, vai Dani. Danilo, e beh, cosa ti sei pigiato dall'antenna? No, ti stavo ascoltando. Ascolta, ma poi il piastrone cosa fai? Non stai uscendo, Piastrone, un cavo e rame o un picchetto in terra o cosa? Non stai uscendo, Dani? Sto andando o no? Come mi senti? Stai uscendo basso come segnale adesso però, Dani, Guarda, non ho toccato niente, sono uguale a prima, non so, dimmi tu. Sei un pochino più basso, mi ha abbassato la potenza. Guarda, adesso come mi senti? È uguale. Ma non è che hai qualcosa in antenna, no Dani? Niente, non ho toccato nulla, quindi strano. Ma Roswell non ne hai? Sì, me lo stavo guardando prima, stavo uscendo a 1-1 e qua lo stesso mi conferma anche lui che sono a 1-1. Ok, se ti conferma che sei 1-1 allora va bene. Niente. Hai capito il discorso, Dani? Sì, ho capito. Ma ti stavo dicendo, poi la piastra cosa fai? La prendi e la colleghi a terra con un picchetto o che cosa? Se la fai dentro casa la attacchi al muro con dei tassilli, e quella lì era la massa che si faceva all'antica, oppure lo puoi mettere anche in un tubo d'acqua, se c'è il tubo d'acqua e clarinetti del tubo dell'acqua, prendi e metti la massa lì. Il punto di massa deve essere sempre un po' umido. La buona i rugosi, li tubi d'Eva. In qualche tubo d'acqua, prendi e la avvolgi di lì, o altrimenti la fai uscire fuori, ti metti un bel picchetto di terra con un cavo un po' grosso e lavoro. Io per esempio gli ho messo due pozzetti in plastica, ho fatto il buco, ho infilato il pozzetto e poi ho messo il palo. Però io per arrivare proprio a una terra eccellente, a una misura di terra eccellente, ho dovuto mettere due paletti, uno a un metro dall'altro, capito? E dove ho messo i paletti non tocca mai sole, è sempre umida la terra. E poi dicono di mettere anche del sale grosso, che va, però basta che la metti nel picchetto che sia sempre un po' umido il terreno e lì funziona alla grande, anche d'estate, io ho sempre un home, quindi funziona alla grande. Però io ho fatto due impianti di terra, uno solo perché tra lì ce n'è uno, poi ho un altro tubo dove ho le antenne della V e delle U, e anche quello è a terra, insieme alla terra delle Graziuli. E poi il cavo di terra è sempre passato nelle canalette, mai così, perché ti potrebbe creare un lupo di terra, dai. Ho capito, sì, ma secondo me col cavo così, che poi dalla piastra dove c'hai tutte le masse attaccate insieme, lo porti proprio a un picchetto, come fate meglio, perché magari nel blocchetto, secondo me, la terra non va tantissimo, mentre invece col tubo dell'acqua, se c'hai i classici tubi in ferro e rame, ti va, perché alla fine comunque passa in terra e quindi scarica bene, ti dico, comunque ti fa una bella massa. Quindi diciamo la soluzione migliore è come hai fatto tu, dalla piastra poi al pozzetto, e lì sei sicuro che scarica in terra, poi essendo anche umida la terra conduce meglio, quindi meglio di così non si può. Sì, io ho la piastra con i bulloni, attacco tutto lì e da lì parte il cavo grosso, un cavo un po' più grosso, il cavo più grosso, perché quello, la terra che ho messo è da quello, quella della, che va dalle radio, le cose da 2,5. E poi vanno, diciamo, quelle delle, i cavi delle, di terra delle radio sono messi in parallelo, e anche quelli degli alimentatori, e poi da lì attaccano la piastra e dalla piastra vanno fuori al picchetto, ai due picchetti, mentre quello della Grazioli va proprio dal basamento dell'antenna, del traliccio, e poi va a scaricare in altri due picchetti, capito? Dall'altra parte dove ho lo scarico della lavatrice. perché la lavatrice di lì ho preso, gli ho messo una IMO fa parte, ed è l'acqua quando altro po' pieno scarica e va nel terreno, proprio il picchetto, i picchetti li ho messi lì, quindi è sempre bagnato. Tant'è vero che anche d'estate di lì c'è l'erba verde, quindi segno evidente che la terra, il picchetto di terra è sempre umido. Vai di nuovo già. E infatti già va bene così. A me mi hanno detto che mettevano tipo del sale grosso, della cenere, poi di nuovo della sabbia e poi del sale grosso. Però se rimane umido sempre, come hai detto tu, è sempre a mille. Perché poi c'è il rischio che se non metti un paletto buono il sale te lo praticheggi. Ci vogliono quei paletti di proprio di terra che hanno, diciamo, l'aggancio per la morsettiera. Ma costano di 18 euro l'uno da bricome, non costano i macassari. Però ti fanno un lavoro eccezionale. No, non è molta gente mette i picchietti, barre filettate, no, noi usi. Il picchietto di terra vuole messo bene. E ti devo dire che io quando brucio a me quegli sbalzi di corrente, quando me l'ho bruciato, adesso la prossima spesa, che la prossima cosa mi comprerò sarà una UPS, un mantenitore di carica. Un mantenitore di carica me lo prendo da un kilowatt e lo lascio, gli alimentatori, tutta la roba me la attacco a quell'OPS. Se ci dovesse essere uno sbalzo di corrente lì, oppure manca la luce, lei ti dà 5 minuti per spegnere tutto, capito? E poi se ritorna di colpo è sempre stabilizzata, perché sta andando con la batteria, e poi quando c'è qualcosa che fa male suona. E vendono anche magnetotermici, è così, vendono anche magnetotermici della Biticino, costano i 400 euro, però lo metti alla fonte d'ingresso del contattore, lo metti dopo il contattore e meccanicamente gli dai proprio la soglia da dove scattare, sia bassa che alta. Se c'è meno di 220 volt scatta, se hai più di 230 volt scatta. E quello ti protegge molta roba, soprattutto gli elettrodomestici. Vai Dani. Guarda, quella roba lì, se fa prendere un Biticino, la trovi anche della Tuglia, che è smart, e ti fa la stessa identica cosa. Praticamente puoi portare o l'allarme o addirittura proprio un trigger, si chiama, che ti stacca la corrente. Però meglio ancora a questo punto, invece di un UPS, metterti proprio all'ingresso dell'abitazione un regolatore di tensione, e lui te la stabilizza e te la lascia sempre stabile il regolatore di tensione, capito? Quindi anche se la tensione, cosa ne so, invece dei classici 230 o 220, 230 o 240 sale molto di più, lui te la taglia e ti fa sempre lavorare a 230, 240, diciamo, e non c'è problemi di questi sbalzi di tensione. Sì, è una sorta di gate nell'audio, più di quel tanto non ti fa salire, è una sorta di gate, di threshold, che c'è il tipo dentro che lavora e ti fa c'è la sorta del fonico che più di quel tanto non gli fa passare corrente. Sì, no, ma stavo pensando proprio con una cosa del genere, proprio alla fonte di dove il contattore entrare, dal contattore e passare tramite questo magneto e andare a fare questo lavoro qua, e nelle radio mettermi l'UPS. Io ho un UPS da un kilowatt, lavoro c'è anche, che non usiamo, però me la voglio prendere in un determinato modo. Adesso vediamo un pochino. Penso la settimana prossima di ordinare a me un amico questa sorta di magneto, perché interessava anche un amico, e proviamo quelli lì. Poi prenderemo anche la UPS, anche da un kilowatt va bene anche da un kilowatt, perché una volta che attacchi un alimentatore o un kilowatt e mezzo, dai, attacchi due alimentatori, a voglia, che vai. quindi le spese, le cose, invece di comprare magari radio, cose inutili, queste qua, quelle sono le cose che ti permettono di comprare la radio una volta e basta e non fare danni, almeno io la penso così. Vai Gianni. Ehi, a KK affermativo, sono cose importanti quelle che proteggono un sacco di cose, da fulmini, da tutti i frigosi, da sbarchi di corrente, eccetera. E uno se lo sa fare è meglio metterselo e piazzarselo e andare bene, funziona tutto regolarmente. Beh ragazzi, io vi devo abbandonare, chiudo le comunicazioni perché oggi sono un po' stanco in tira e domani devo affrontare una giornata un po' così, diciamo, anche se è tutto regolare, però è una giornata impegnativa, quindi devo cercare di rimanere più rilassato possibile. E va bene così, dai. Allora io vi saluto, grazie della piccola conversazione. Ciao Danilo, ciao Gavino, e se capita e coincidono gli orari ci sentiamo alle prossimine, dai. Ciao ciao. Ia, riprendo io. Ciao Gianni, ce li ascoltiamo, dai, domani, io domani dopo la solita ora, dai, dopo le 6:30, le 7 già sono operativo. E quindi domani notte 6 già ci facciamo la chiacchierata. Vai Danilo per i saluti a Gianni. Ciao Gianni, ciao. Allora ci sentiamo domani, dai, che domani così finisco di smanettare con la radio, diciamo così mi vedo qualche altra impostazione. Ehi, gappa, ciao Dani. Ciao Gianni, visto? Adesso mi stai copiando bene, e la potenza è sempre uguale in uscita, No, già va bene, io sto uscendo con i bassi della radio perché ne ho spento tutto e penso di arrivare bene uguale, dai. Sì, ma c'è stato un buco di propagazione, ma anche con Gavino, perché tu mi arrivavi a 8 e mi sei sceso a 6, Gavino mi arrivava a 9 ed è sceso di punto di bianco a 7, adesso siete risaliti entrambi. Vi sono accaduto che vecchia vigliacca in giro, culo cubulo. A che vecchia vigliacca, buona nella portante. Vabbè, comunque Gavi, sì, no, qualche cosa come protezione per la sovraccorrente ci vuole per forza, perché finché è sotto corrente e se sotto i 220, anche a 210, ancora vedi le luci che si attivano, ma il problema accade quando superi i 250, perché poi di lì ti va di danno, anche perché le apparecchiature ti fanno da 220 a 240, sì, ok, c'è sempre un più o meno 10% di tolleranza, però bene non li fa sicuramente. Ma assolutamente no, ti sto dicendo, mi ha bruciato il PS430 della Kenwood e l'ho dovuto mandare a Bologna a riparare. Lascia perdere che poi mi è arrivato anche rotto, mi è arrivato spaccato, questi corrieri bastardi. Che si mette, beh, da la tua cui la faccia e niente, me l'ho sistemato io, per carità, mandi la roba a riparare, ti arriva rotta, quindi adesso devo curare quella roba in alimentazione. E devo vedere un po' come fare il tutto ed è un disastro, altrimenti queste robe qua devi inventarti un moto perpetuo e andare col moto perpetuo, ma nel senso moto perpetuo è impossibile, però alimentazione a batteria, attacchi un caricabatteria alla corrente e devi fare il calcolo di quanto assorbi. Per esempio, se tu assorbi 30 ampere ora, devi comprare un alimentatore che riesce in un'ora anche a prendere, a caricarti una batteria o due batterie da 30 ampere. Mi segui? Allora, così l'alimentatore di quelli soprattutto vecchi, anche se gli arriva a 240, 250, quelli prendono, non ne frega niente. E in base agli avvolgimenti che hanno, in base al trasformatore che hanno. però tieni la roba sotto batteria di macchina e in pratica accendi solo l'alimentatore, va il caricabatterie e basta, e poi vai con le batterie di macchina. Quella è la cosa più sicura, quella è la cosa più sicura perché sei indipendente da tutti e se la punibilia se la possono prendere per non battere il sole, almeno io la penso così. Però non mi posso riempire qua sotto dove c'è questa scrivania, non mi posso mettere 3-4 batterie di macchina, ma assolutamente. Vai di nuovo Dani. Eh sì, sì, è quello che ti casini. Ascolta una cosa, ma con l'UPS poi lui dentro, avendo un inverter, poi non è che ti incasina e ti fa un sacco di QRM, no? No, la, beh, se prendi quell'UPS, sì, può anche darsi. Però se prendi un UPS buona, che ha batterie buone, no, non ti fa, non ti dà quella soglia di QRM, perché sono molto, per esempio quelle che abbiamo al lavoro, noi ne abbiamo 2 da 3 kW, belle, che usiamo per i banchi, usiamo per i mixer, queste cose qua, e poi ne abbiamo una da 1 kW, 1 kW, 1 kW, 1 kW e mezzo, mi sembra che sono, mi ricordo, è piccola, come un po' piccolina, vedete sono grandi. E funziona bene, non dovrebbe, anche perché noi usiamo radiofrequenza a livelli di microfono, a livelli di near, quindi ce ne accorgiamo di queste cose qua, io me ne accorgo poi, e non ha mai creato nessun problema, Dani. Ho capito, quindi roba seria, dai, che comunque isolata bene, quant'altro, e non ti fa interferenza dal caso. Vabbè, Gavi, è stato un piacere provare la radio, regolarmene insieme a te, tra l'altro, grazie per le dritte, e mi sa che anch'io ti abbandono, e ci sentiamo domani, se ci sei. Sì, io già, magari, se fai chiamata e sono in sala, non faccio in fretta, ma almeno 20 secondi me li dovete dare. No, io ce l'ho accesa, io quando, la prima cosa che faccio tutti i giorni quando rientro da lavoro è prendere e accendere le radio. Io le radio mie sono sempre accese. E sono anche il PRM o anche Dani. Già mi trovi qua sul 12 in FM, a meno che non esco con la famiglia, però all'80% io sono sempre qua. Ok? Chiudo anch'io le trasmissioni. Ciao Danilo, buonanotte, ben sentito, e auguroni per la radio. E ce la riascoltiamo le prossime. Quando vuoi fai chiamata. O ci sono io, c'è Gianni, c'è Tino, c'è Franco, c'è sempre, dai, in genere c'è sempre qualcuno. Ok? Ciao, buonanotte Danilo, a te QRA familiare, alle prossime. Chiudo e non riprendo. Ciao. State chiudendo. Perfetto Gabino, allora domani, buonanotte anche a voi. Ciao Franco, Danilo, guarda a vedere se senti Franco. Vai Danilo. No, niente, 0000. Già mi senti, perché non mi senti Danilo? Buonasera. No, ecco, adesso mi sei rifatto, forte e chiaro. Mi sembra che se sei Danilo che dico io mi dovresti ascoltare benissimo. Sì, a voglia, mi stai arrivando a 9. Capo, comunque buonasera, sono arrivato in ritardo, state chiudendo. Va bene, dai, mi lascio ai vostri comodi. Ok, grazie Franco, buonanotte, a domani se ci sei. Capo, dai, buonanotte. Ci sentiamo domani allora, dai, non c'è problema. E allora, Gavino? E allora, Fra, dimmi, stavolta abbiamo fatto una chiacchierata con Danilo, con Gianni. No, niente, è entrato stasera e mi si è preso la radio uguale alla mia, uguale il 6009, e la stava provando, dai. Capo, sì, no, stavo uscendo bene, io poco ve l'ho sentito, stavo uscendo bene. No, io mi sono salito adesso così, ho acceso, vi ho sentito, e niente, invece stavate chiudendo, vabbè, pazienza. Allora ci sentiamo, dai, me ne ritorno giù. Sto chiudendo, la mattina la sveglia è presto. domani mattina la sveglia è presto e già mi capisci, dai, sennò è un disastro. Ecco, va bene, va bene. A domani, dai. Ciao Gabi, buonanotte. Yes, yes, a domani Franco, ciao, buonanotte, buonanotte. Alla prossima, a te ancora ai familiari, ciao ciao. Ehi, ciao ciao.